Nell'ambito religioso si parla spesso di chiese, la Chiesa cattolica, la Chiesa ortodossa e le chiese protestanti, e chi più ne ha più ne metta. A molti però è sfuggita una Chiesa che dovrebbe essere più comune e conosciuta di quanto essa sia, e cioè la Chiesa casalinga, o meglio la Chiesa che si trova nelle case. Non è certamente una mia originalità o invenzione. Infatti troviamo l'esistenza della Chiesa casalinga già agli albori del cristianesimo. Ne abbiamo traccia negli scritti dell'Apostolo Paolo. Leggiamoli. Salutate Priscilla ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la loro testa per la mia vita. A loro non solo io, ma anche tutte le chiese dei gentili rendono grazie. Salutate anche la chiesa che è in casa loro, Romani 16:3-5. Le chiese dell'Asia vi salutano Aquila e Priscilla insieme alla chiesa che è in casa loro. Vi salutano molto nel Signore. 1 Corinzi 16:19. Salutate i fratelli che sono a Laodicea, Ninfa e la chiesa che è in casa sua. Colossesi 4:15. Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, e il fratello Timoteo, a Filemone, il nostro amato fratello e compagno d'opera, alla cara Appfia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che è in casa tua. Filemone 1:1-3. Ciò che abbiamo letto è stato scritto tra i 55 e i 65 d.C., e questo vuol dire che sono trascorsi appena poco più di 20 anni da quando Cristo è risorto. L'Apostolo Paolo ci fa sapere che almeno 3 persone ospitavano una chiesa in casa. Per qualcuno ospitare una chiesa in casa potrebbe essere una espressione fuori posto, perché nell'immaginario comune il termine chiesa corrisponde a un edificio. Ma poiché per i primi cristiani il termine chiesa era riferito ad uno specifico gruppo di persone, era normale che alcuni discepoli di Cristo ospitassero una chiesa in casa loro. Per noi oggi, ospitare una chiesa in casa potrebbe anche non essere una grande novità. Ma tenendo presente che la fede degli ebrei, fino a quando questo non fu distrutto, doveva essere espressa unicamente nel Tempio di Gerusalemme, e in seguito alla sua distruzione, fino ai giorni nostri, è espressa nelle sinagoghe, come arrivarono gli ebrei Sabra a ospitare una chiesa nelle loro case? Cos'era successo perché un'abitudine millenaria potesse essere rivoluzionata? Prima ancora che Gesù morisse e risuscitasse, i discepoli di Cristo si trovavano già in un luogo chiamato la sala di sopra, Atti 1:3, un vano che conteneva fino a 120 persone, Atti 1:1-2. 1. I primi cristiani dunque avevano un luogo che faceva le funzioni della sinagoga, anche perché non erano bene accettati dai farisei e sadducei, ma i problemi di spazio crebbero con la predicazione di Pietro, perché in poco tempo i discepoli di Cristo aumentarono di qualche migliaio. Atti 2:41-4:4. Così, per ragioni di spazio, si ritrovavano sotto il portico di Salomone, Atti 5:12. Un luogo sempre situato nel Tempio, ma che aveva un porticato con una circonferenza più di 1 chilometro. Così, i primi ebrei cristiani avevano il loro luogo di ritrovo alla presenza dei giudei, cioè sotto il portico situato nel Tempio, e di tanto in tanto nelle case, Atti 5:42. Era arrivato il tempo del quale i profeti e Gesù avevano parlato, e cioè che il Tempio di Gerusalemme non sarebbe più stato il luogo di adorazione, Giovanni 4:21, ma sradicare una usanza millenaria da un popolo non è facile. Occorreva perciò un evento così radicale da costringere i primi cristiani a mutare la loro abitudine. Fu così che Dio intervenne in un modo drastico. Poco dopo la resurrezione di Cristo, Stefano, il primo martire, viene lapidato, e lo storico Luca ci riporta questo episodio che cambierà radicalmente la storia religiosa del mondo. Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli, e alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa entrando di casa. In casa trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione, Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola. Atti 8:1-4. Se non ci fosse stata la persecuzione, i primi cristiani ebrei non avrebbero mai predicato a altre persone il messaggio del Vangelo contenuto nella legge, perché la lettura della legge veniva fatta nel Tempio. Questa costrizione a fuggire dalla città santa di Gerusalemme ebbe un effetto che sconvolse il mondo intero. Luca lo esprime in questo modo. Or coloro che erano stati dispersi a motivo della persecuzione iniziata con Stefano arrivarono fino alla Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunziando la parola a nessun altro, se non ai soli giudei. Or alcuni di loro originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare ai greci, annunziando il Signore Gesù. E la mano del Signore era con loro. E un gran numero credette e si convertì al Signore, Atti 11:19-21. Dunque, per la prima volta dei giudei lontani dalla loro patria predicano l'Evangelo a dei non giudei. Il risultato fu che molti cedettero, e dato che ormai gli ebrei avevano perso il tetto delle riunioni, automaticamente offersero il proprio. Ogni casa divenne un tempio. Ogni casa divenne una sinagoga. Da ora in poi una casa poteva ospitare una chiesa. Avere una chiesa in casa non è da tutti, e non tutti sanno quanto sia di benedizione offrire il proprio tetto, perché si possa leggere la parola di Dio e pregare. Parlando di benedizioni ci si riferisce ad un termine vago, e a volte anche mal compreso, perciò è opportuno valutare nella pratica almeno 10 ragioni per le quali è vantaggioso tenere delle riunioni di lettura biblica e di preghiera nella propria casa. 1. Innanzitutto si tratta di obbedienza al comandamento di Dio di essere dei testimoni. Non tutti i credenti sono chiamati ad essere dei missionari, cioè lasciare casa e affetti familiari per predicare l'Evangelo, ma tutti i figli di Dio sono chiamati a testimoniare della propria fede. E la propria casa è il luogo più adatto per poterlo fare. 2. Avere delle riunioni in casa propria è anche un mezzo per poter imparare a comunicare e stimolare altri a socializzare. In una grande costruzione dove si affollano 100, 200, 300 persone, la maggioranza degli individui si sente un numero. Non ha un vero contatto umano, ma un gruppo di 10 o 15 persone aiuta ad aprirsi e confidare alcuni aspetti intimi che non sarebbero mai stati detti altrove. La famosa terapia di gruppo non può verificarsi con centinaia di persone. Essa esige per la sua natura in sé poche persone conosciute e stimate. 3. Una terza ragione secondo per la quale è opportuno avere delle riunioni di preghiera e di lettura biblica in casa propria è che si impara ad amare veramente le anime. Quando si parla di amore spesso si parla di qualcosa di molto vago. L'amore per la maggioranza delle persone rimane solo una parola vuota e senza senso, o per lo più confinata solo all'erotismo. Ma quando si frequentano delle persone, e con il trascorrere del tempo se ne conoscono i lati positivi e negativi, allora per continuare a vedersi con la voglia di voler godere della reciproca presenza, l'amore inizia miracolosamente a sorgere e ad aumentare. Si impara ad accettare le persone per quello che sono e non per quello che noi vorremmo che fossero. Frequentando una persona si impara ad amarne pure i difetti e limiti, al punto che non vorresti più che cambiasse perché quei difetti e limiti fanno parte della sua personalità. E, come nel caso di un viso con il naso storto o con un grosso neo sulla fronte, togliere questi difetti significherebbe non avere davanti la persona di prima. Amare significa accettare. Per accettare occorre conoscere. Per conoscersi occorre frequentarsi. Per frequentarsi occorrono anche le riunioni nelle case. Per avere delle riunioni nelle case è necessario amare Dio e il suo regno. 4. In una riunione di poche persone per integrarsi si impara anche a tacere. È vero che quando si è in pochi si impara ad aprirsi e parlare. Ma è altresì vero che spesso è necessario saper ascoltare altri che esprimono le loro idee. Spesso si avrebbe voglia di intervenire, ma il buon senso, l'educazione e l'amore cristiano insegnano che è più importante saper ascoltare che parlare. Inoltre, le confidenze che si ascoltano nel corso della riunione rendono indispensabile che chi abitualmente non fa parte del gruppo sappia mantenere un rispettoso silenzio. Non vi è momento più opportuno per tenere a freno la lingua se non quando ci si trova a pregare e leggere la parola di Dio in una casa. 5. Un quinto aspetto è che in queste specifiche riunioni si impara anche a risolvere i problemi perché il prossimo spesso espone problematiche di vita e di comprensione biblica che rendono necessario un insolito sforzo di concentrazione e di conoscenza. Spesso desiderando di aiutare gli altri si aiuta se stessi. 6. In più, nell'ascolto dei problemi altrui, inaspettatamente ci si consola perché ci si rende conto prima di tutto che i nostri problemi sono comuni a tutti, e non poche volte conosciamo dolori e pene sopportati da altri, che rendono più sopportabili i nostri. E è come quando ti lamenti con il mal di pancia, dopo aver parlato a lungo con chi ha un tumore, sembra che sia più sopportabile, se addirittura non ti sparisce del tutto. 7. Dobbiamo anche riconoscere che le riunioni di chiesa nelle case esercitano soprattutto alla disciplina, perché ti costringono ad essere puntuali. Per un fattore psicologico, se si arriva in ritardo dove ci sono 300 persone, non se ne prova vergogna, ma se si è in 10 ci si sente notati, se non additati. 8. Spesso la chiesa casalinga con la sua familiarità evita la depressione, perché il legame che si instaura ci induce a preoccuparci di più degli altri. In effetti, la depressione è quasi sempre il risultato di un eccessivo interesse verso se stessi e i propri problemi. Infine, una chiesa in una casa produce altri due frutti dello Spirito Santo. 9. Si comprende meglio chi lavora nel campo di Dio. 10. E con il presenziare a questi incontri si è di esempio agli altri. Poiché siamo degli esseri limitati, è molto difficile poter cogliere la consacrazione e la fedeltà altrui in una marea di persone. Ma se si è in pochi si ha la possibilità di conoscere anche i bellissimi aspetti insospettabilmente celati della vita nascosta con Cristo in Dio. Colossesi 3:3. Ciò che Dio produce nella vita degli altri allarga il cuore ed è di immensa edificazione. Questi sono solo alcuni meravigliosi aspetti derivati dal tenere delle riunioni nelle case o dall'ospitare una chiesa casalinga per leggere la parola di Dio e pregare. Molto probabilmente, secondo le profezie, le istituzioni religiose verranno sconvolte e i figli di Dio che saranno saggi in un prossimo futuro si troveranno nelle case. Se così è, perché non iniziare ora? Se così non fosse, perché privarsi di queste benedizioni ora? Sono domande queste che esigono una risposta. Ottobre 2005. Ellero.